Il punto di Stefano Folli. In un paese in cui le tasse arrivano in molti casi fino al 68% del reddito prodotto, è singolare che crei scandalo il viceministro Fassina quando dice che esiste anche l'evasione di sopravvivenza. È palese che Fassina, uomo della sinistra, non pensa ai grandi malfattori, a chi si nasconde in qualche paradiso fiscale. Pensa piuttosto al piccolo o piccolissimo imprenditore, al commerciante minuto, al lavoratore onesto e vessato. Eppure dire che esiste l'evasione per necessità equivale a infrangere il tabù. Il realismo contro l'ideologia. Per cui si preferisce affermare in ogni sede che se tutti pagassero le tasse queste calerebbero. Frase vera in astratto, ma purtroppo solo in astratto. Perché con la tassazione complessiva tra le più alte dei paesi occidentali e un debito pubblico che ciò nonostante aumenta di circa 10 miliardi al mese, meglio essere realisti e domandarsi se la via dei proclami è davvero la più efficace.